in primo piano. I giornali oggi si concentrano, per quel che riguarda le aperture, soprattutto sulla politica. La parola che come un tormentone ritornata negli ultimi tempi è quella di inciucio o comunque una possibilità di accordo. Vediamo allora una rapida carrellata dei titoli. Berlusconi, il clima di odio spinge le menti labili a colpire. Così è il Corriere della Sera. Ieri Berlusconi è tornato in audio a parlare. Io aggredito per il clima di odio e l'apertura di Repubblica. Per La Stampa, La Stampa si spinge oltre. Presto vertice tra Bersani e Berlusconi. Per Il Giornale, ecco gli ingrati della politica. La banda dei miracolati, poi la vedremo. Le aperture non strettamente politiche ma di altro tipo sono Il Sole 24 Ore, come di consueto lunedì. Arriva la class action con debutto morbido a partire dal 1 gennaio del 2010. E poi lo vedremo, insomma, oggi è il giorno in cui Il Sole 24 Ore pubblica il rapporto sulla qualità della vita, giunto quest'anno alla 20ª edizione. Docenti, lite sulle 40 ore settimanali e l'apertura del Messaggero sulla riforma universitaria. Infine, l'Unità, cito, il ponte delle beffe. Si concentra molto l'Unità su il ponte di Messina. Il bluff della prima pietra, mercoledì partono ufficialmente i lavori. In realtà si tratta solo di una variante ferroviaria. Ma appunto, come detto, la politica. La politica, dopo che D'Alema qualche giorno fa, usando una parola che tra l'altro lui dice io non l'ho usata, altri dicono ecco, quella parola magari non è da usare, cioè inciucio, comunque D'Alema del PD ha aperto sulla necessità delle riforme. La notizia, come detto, è soprattutto sulla stampa messa in questo modo: si lavora al vertice tra Silvio e Bersani subito dopo le feste. È Fabio Martini che ne parla, pagina 6. La prima volta si è consumata in ospedale, la seconda potrebbe svolgersi a Palazzo Chigi. A Silvio Berlusconi è piaciuto assai il contatto umano di una settimana fa con Pierluigi Bersani, persona squisita. È piaciuto che il leader del PD sia andato a trovarlo mentre il premier era ricoverato, un gesto tanto più apprezzabile visto che altri, Casini per esempio, hanno preferito contatti a distanza. E dunque, questa è la notizia, ecco la novità. Esaurita l'emergenza ospedaliera, a Palazzo Chigi si sta lavorando a un incontro a quattro occhi, Berlusconi-Bersani, stavolta di tipo politico, e si potrebbe concretizzare addirittura nella prima quindicina di gennaio. In quell'occasione, scrive Martini, il capo del governo e il capo del più grande partito d'opposizione sarebbero chiamati a misurare le distanze, cercando di capire se si potrà fare un tratto di strada assieme. Ed è proprio questa l'idea dell'accordo. Accordo sì o accordo no in nome delle riforme per sbloccare questo paese, a cominciare dalla riforma della giustizia. Questo è il termometro del dibattito politico di questi tempi. E come viene affrontato dai giornali? Beh, con una serie di interviste. Il lunedì spesso capita, insomma, d'altronde il giorno che precede è un giorno certo non di lavoro politico, e dunque ecco le varie interviste. Ce n'è una carrellata davvero. Inizio da Rosy Bindi, presidente del Partito Democratico, intervistata da Repubblica. Noi non abbiamo armato nessuno, siamo pronti al dialogo ma senza baratti. Non abbiamo armato nessuno, ribadisce Rosy Bindi, né abbiamo fatto quello di cui ci si accusa. Vedo che si torna di nuovo sui responsabili morali dell'aggressione a Berlusconi per mano di uno squilibrato. Così Rosy Bindi, diciamo, commenta quello che Berlusconi ieri ha detto, vale a dire che il clima di odio ha influenzato le menti labili. E Rosy Bindi dice: c'è un confine al dialogo, un confine invalicabile oltre il quale il confronto si ferma. Il PD non potrebbe essere disponibile a riforme che feriscono la Costituzione. E ancora, insomma, come ha detto Bersani, no alle riforme e alle leggi ad personam. Certo, su D'Alema poi dice Rosy Bindi: bene quando dice che bisogna fare le riforme, sia però più prudente, eccolo lì, e non usi la parola inciucio che è impropria. Chi è contro un qualsiasi tipo di accordo, qualsiasi tipo di dialogo con Berlusconi, ma questo si sa, è Antonio Di Pietro, leader dell'Italia dei Valori. E quindi passo all'altra intervista, Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, intervista Di Pietro, che dice: il governo è come Dracula, la prima riforma da fare è cacciarlo. E ancora, beh, Di Pietro subito anche lui dice: chi ha fomentato questo brutto clima? Non certo noi. Io, mi ascolti bene, non ci sentiamo assolutamente responsabili, addirittura accuso e denuncio questo governo, un governo che persegue interessi di stampo, scriva bene, di stampo piduista. Cose insomma già sentite anche da questi microfoni dette da Di Pietro, e la denuncio il finto buonismo di un'opposizione che ha un atteggiamento pilatesco. Io dico, D'Alema lo rispetto ma non lo condivido. Ed ecco qui il punto nodale, quello della possibilità di riforme. Dice Di Pietro, riforme? D'Alema chiede ciò che chiedono 60 milioni di italiani, compreso me. Il problema è che per fare una riforma occorre essere in due. E purtroppo in Italia Berlusconi, quando fa politica, ogni volta che si è seduto al tavolo per discutere, non è mai stato d'accordo su niente. E poi ancora, il ministro Tremonti però apre nell'intervista al Corriere di ieri, dice che è il momento di varare riforme condivise. Se qualcuno chiedesse a Dracula di gestire la banca del sangue, Dracula si tirerebbe indietro, dice Di Pietro, che poi precisa, Dracula non è Tremonti, è quel clan, quel gruppo di persone che gestiscono la politica italiana. Insomma, la prima riforma da fare per Di Pietro, mandare a casa Berlusconi. Si sa, Di Pietro è l'ala assolutamente che punta alla chiusura, non certo alla possibilità del dialogo. Sulla Stampa, eccola ancora le interviste, Franco Frattini, ministro degli esteri, se vogliamo cambiare l'Italia serve una nuova costituente. Vedo in azione minoranze politiche coalizzate tra loro al solo scopo di creare divisioni, tra tutti Di Pietro, per l'appunto, dice Frattini. E poi per le riforme è più che mai il momento. Vedo due fenomeni preoccupanti, una è questa minoranza rumorosa, diciamo così, l'altra invece un'Italia che non sa parlare con una sola voce sui grandi temi internazionali e spesso si è divisa agli occhi del mondo, dice Franco Frattini in questa intervista a Ugo Magri. Chi chiude anche al dialogo è Sergio Cofferati del PD in un'intervista all'Unità, Simone Collini. Per ora il PDL non ha credibilità. È altrettanto evidente che il governo non ha mostrato alcun interesse per le riforme, dice Cofferati. Allora la via quale deve essere? Prima di tutto il centrodestra costruisca le condizioni per il confronto, così acquisisca credibilità. Dobbiamo continuare, insomma le interviste sono tantissime. C'è anche Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, intervistato sempre da Repubblica. È un po' nella bufera perché ha accostato il governo Berlusconi addirittura al mostro di Marcinelle, insomma il pedofilo in Belgio, cose un po' così. Non ho affatto detto che il premier è un mostro, si giustifica Ferrero, ma ho detto che mettere nelle sue mani le riforme è come affidare un asilo al violentatore di Marcinelle. Vabbè, insomma. E poi ancora dice, siamo pronti ad accettare Casini premier pur di battere la destra di Berlusconi. Insomma, per quel che riguarda invece i commenti, il giornale dice, è l'ultima chiamata, non è un inciuccio, nell'editoriale di Alessandro Sallusti in prima pagina, a dire cioè è l'ultima chiamata, appunto, sotto l'albero di Natale della politica c'è un'ipotesi di tregua e se la cosa si avverasse sarebbe un bel regalo per gli italiani, scrive il giornale, mentre anche Giuliano Ferrara nell'editoriale canonico del lunedì sul suo Foglio parla appunto di D'Alema, il D'Alema natalizio e inciucista che fa arrabbiare la nota lobby, scrive Ferrara. Dietro questa storia della legittimità del compromesso che ha tanto scandalizzato le anime buone dei lanciatori di merda, c'è uno slittamento natalizio del carattere di un leader. D'Alema è meno insopportabile di una volta. Può mandare a quel paese la cultura azionista del gruppo Espresso Repubblica che un certo peso a sinistra lo mantiene e può farlo con un tratto di serenità e perfino di soavità che non gli conoscevo. È che ora, scrive Ferrara, si sente sicuro il compagno segretario perché ha ripreso in mano lo strumento decisivo della politica, il partito. Certo, poi più avanti, analizzando la possibilità delle riforme, nel suo editoriale Ferrara scrive «Tonino Di Pietro non è d'accordo, Veltroni eccepisce, Franceschini si lamenta, tutti se la prendono con il d'alemiano La Torre che chiede tempo ed esorta a diffidare dei miti della spallata del colpo di mano. Capisco bene le ragioni rispettive. La politica è anche ricerca di garanzie e protezioni e prevale nel demagogo di Montenero, cioè Di Pietro, come la minoranza del PD, un sentimento genuino di paura, la paura che D'Alema sia il primo che agganci Berlusconi, il primo che riesca a stabilizzare il sistema e ad architettarne qualche cambiamento positivo. Poi si conclude così: a proposito, onorevole D'Alema, spero ella ricordi che la bicamerale si infranse contro il tentativo palese da lei messo in campo di isolare Berlusconi con l'aiuto di Fini. Per riuscire dove si è fallito una volta, basta non ripetere l'errore. Questo Giuliano Ferraro in prima pagina sul Foglio nell'editoriale del lunedì. C'è per chiudere l'ampia pagina politica un'intervista che Daniele Manca fa sul Corriere della Sera a chi? A Pier Silvio Berlusconi, figlio del Premier. Uno dei figli del Premier, colui che è a capo di Mediaset. In realtà l'intervista parla a lungo. Praticamente è tutta concentrata sulla nuova acquisizione che Mediaset ha fatto in Spagna, vale a dire l'acquisizione insomma di 4. Pier Silvio, con Mediaset in Spagna anche l'Italia cresce. Ovviamente però Berlusconi parla inizialmente di quello che è successo domenica scorsa. Domenica, quando ho visto mio padre col volto insanguinato a studio aperto, ho avuto davvero paura, dice Pier Silvio Berlusconi. L'aggressione è figlia di un clima politico deprecabile che è sotto gli occhi di tutto e spero si contribuisca a rendere meno drammatico. Poi chiaramente parla della vicenda, insomma, dell'acquisizione di 4. Comprando 4 avete dato una mano a un gruppo, El País, che è fortemente indebitato, chiede Daniele Manca, e che ha pubblicato le celebri foto di Villa Certosa. Non ha provato alcun imbarazzo? Da parte mia sicuramente no, non so da parte loro, dice Pier Silvio Berlusconi. Io sapevo, e con me tutta Mediaset, da Confalonieri a Marco Giordani, che ha seguito passo passo l'operazione, che avevamo davanti la possibilità di aggiungere a Telecinco 4, che è una sorta di Italia 1. In più, con Digital Plus entriamo nella Pay TV via satellite. Questo era il nostro obiettivo e non altri. E dice, tra l'altro, abbiamo parlato anche con Zapatero, che si è mostrato attento ma molto aperto sul nostro investimento nel suo paese, e poi insomma dice l'Italia crescerà anche grazie a noi in Spagna. Questa è l'intervista di Daniele Manca a Pier Silvio Berlusconi. Io vorrei archiviare la politica e andare sul Sole 24 Ore, parlare un po' di economia. Intanto, l'apertura del Sole 24 Ore è dedicata alla class action. Sapete che arriva la class action, mancano 10 giorni al debutto di questo nuovo strumento giudiziario. Dal 1 gennaio i consumatori singoli o associati potranno depositare le prime richieste collettive di risarcimento. È un cambiamento sicuramente epocale, è stata più volte rinviata, ora però entrerà in vigore. Ci sono due pagine molto interessanti, pagina 2 e pagina 3, che spiegano tutto, cioè come avverrà la class action, i tribunali nei quali si potrà fare appunto questo ricorso collettivo, quello che è pronto e quello che no, perché in realtà il Sole 24 Ore evidenzia come sia tutto ai nastri di partenza, ma non è che sia tutto molto molto chiaro. Nulla da fare per il passato, beh, questo è il fatto che non ci sia una retroattività, questo è importante, ma poche certezze anche per il futuro. L'applicabilità della class action alla materia finanziaria si muove tra pochi certezze e molti dubbi. Per esempio, Andrea Maria Candidi e Giovanni Parente spiegano bene a pagina 3 come, facendo un po' in giro dei tribunali, degli 11 tribunali, perché sono 11, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, quelli nei quali si potrà fare la class action, non è che siano state date disposizioni, per esempio, per capire se formare un pool di magistrati che si concentri su questo. Poi mancano, insomma, ci sono le carenze di organico. Il presidente del Tribunale di Roma, per esempio, dice: di certo non potremo delegare alcuni magistrati a fare solo questo, è un lusso che non possiamo permetterci. Istituire una sezione per la class action comporterebbe destinare alcuni magistrati solo alla trattazione di queste cause. Insomma, ci sono un po' di dubbi, altri tribunali che non hanno ricevuto sostanzialmente disposizioni su quello che succederà e mancano appunto 10 giorni. Però è tutto spiegato, almeno nella teoria, poi vedremo l'azione pratica a partire dal 1 gennaio, quello che succederà. C'è anche molta curiosità a capire quali saranno le prime cause collettive. È molto spiegato soprattutto quello che non si potrà fare. Leggete bene il Sole 24 Ore, perché non si può pensare che sia una class action all'americana in tutto e per tutto, ma ci sono delle novità. Ora mi voglio concentrare su appunto la classifica, la qualità della vita. È una classifica giunta ormai alla 20ª edizione, che oggi viene pubblicata in allegato al Sole 24 Ore, nel dossier del lunedì. Sono 12 pagine molto intense che certificano come Trieste sia la provincia che quest'anno si è aggiudicata, non è la prima volta, per la verità era già successo nel 2005, la palma di migliore provincia come qualità della vita. Sapete, è una classifica molto interessante perché tiene conto di tante cose, non solo il reddito delle persone, ma il tenore di vita, l'ordine pubblico, i servizi, l'ambiente, la popolazione, il rapporto tra cittadini, pubblica amministrazione, la demografia, insomma l'opportunità di svaghi. Quindi una classifica molto composita, che vede Trieste appunto vincere. Tra l'altro questo sarà il tema, voglio ricordare, di Oscar Giannino alle ore 9, se ne occuperà, davanti a Belluno, poi Sondrio. Queste le prime tre, le ultime tre: Caltanissetta, Napoli e Agrigento maglia nera. Poi all'interno ovviamente ve le dovete un po' studiare, anche un po' di curiosità, insomma prendetevi il Sole 24 Ore, scoprirete, ma non solo la classifica in sé, ma all'interno, nelle 12 pagine, anche che cosa vuol dire, come incide per esempio la criminalità, come incide il verde. Per esempio scoprirete che Verbania si merita la pagella verde più alta come provincia, oppure che nella provincia dell'Ogliastra e di Nuoro c'è la maggiore disponibilità di scuole superiori. Magari anche questa è una curiosità che non sapevate. Qual è il trend della ricchezza? Come incidono i risparmi, sempre in questa classifica? I consumi delle famiglie, gli inganni, le allarmi rapine, la microcriminalità, le donne occupate, la classifica dei protesti. Volete sapere chi è in testa la classifica dei protesti? Belluno. Chi apre e chi si ritira, insomma, il rapporto tra iscrizioni e cancellazioni, insomma ci sono tantissime classifiche, sottoclassifiche, che poi vanno a comporre quella che è la classifica principale, che ripeto fa vincere Trieste con la palma d'oro, Trieste che è in testa, insomma sul gradino più alto del podio, davanti a Belluno e a Sondrio. Queste le prime tre posizioni sul rapporto, la classifica qualità della vita, giunta alla 20ª edizione del Sole 24 Ore. Pio XII, a rischio la visita del Papa in sinagoga. Trovate questa notizia un po' sui vari giornali, la leggo così come titolo su Repubblica. La notizia, a che cosa si riferisce? Al fatto che il Papa Benedetto XVI nei giorni scorsi ha accelerato il processo di beatificazione appunto di Papa Pacelli. E insomma è un Papa sul quale ci sono state molte polemiche storiche, continuano queste polemiche soprattutto nei rapporti tra il Vaticano e la comunità ebraica. Perché? Perché era il Papa ovviamente che era capo del Vaticano anche durante gli anni bui del nazismo, l'accusa insomma quella di non avere parlato a voce alta, del silenzio nei confronti di fronte alla Shoah. Ora questa accelerazione inaspettata da parte della comunità ebraica del processo di beatificazione potrebbe, secondo qualcuno, anche mettere addirittura a rischio la visita del Papa in sinagoga, una visita che è in programma, credo, il 17 gennaio. Tanto che il Cardinal Casper sulla stampa, in un'intervista a Giacomo Galeazzi, dice: sono polemiche emotive, penso che alla fine prevarrà il buon senso. Sarebbe un'assurdità se saltasse la visita di Benedetto XVI alla sinagoga di Roma. Prevedevo reazioni negative, ma prevarrà il buon senso. Ma non era meglio aprire prima gli archivi a questo punto? La beatificazione è distinta dalla ricerca storica e solo il Papa può decidere su questo. Poteva andare avanti, rallentare, rinviare. Ha scelto di chiudere la partita perché tutti gli elementi vanno a favore di Pio XII, che ha fatto il possibile per salvare gli ebrei durante l'Olocausto. Durante le persecuzioni naziste La condanna dell'Osservatore Romano era quotidiana. Le ricerche storiche serie stanno isolando chi vuole alimentare contrapposizioni. Pacelli spalancò conventi e canoniche ai perseguitati. Sulle proteste degli ebrei, dice il Cardinal Casper, sono polemiche emotive, ma da tempo trovo minori opposizioni a Pacelli beato. Insomma, quindi, dice il Cardinal Casper, non ci sarà questo blocco. Certo, si parla anche di sconcerto e delusione in Israele. Ora il Vaticano apre appunto quegli archivi. Anche sul Corriere della Sera c'è questo tema trattato con un colloquio tra Amos Luzzatto, che è già stato in passato è stato presidente delle comunità ebraiche italiane, e il filosofo cattolico Giovanni Reale. Con Luzzatto, che dice questa decisione crea amarezza, mentre il filosofo Giovanni Reale dice comunque sono stati fatti passi in avanti enormi. Ma certo, il rapporto tra Vaticano e gli esponenti delle comunità ebraiche in questo momento così fa un piccolo passo indietro nella via del dialogo dopo questa decisione. Voglio andare a alcune notizie anche dall'estero che trovate sui giornali. Beh, in Iran è un giorno importante. Perché? Perché è morto il grande Ayatollah Ali Montazeri, che era il grande Ayatollah per gli sciiti e che in passato, dopo le elezioni contestate che hanno riportato e riconfermato al potere Ahmadinejad, ha detto che quello in Iran è un sistema politico che si fonda sulla repressione, sulla manipolazione del voto. Ora è morto e oggi ci sono i funerali. Ora, quindi, questo fa capire che c'è grande tensione, molte forze di polizia nella città santa di Qom, dove ci saranno i funerali, con i giornalisti che sono, ai quali è stato vietato i giornalisti stranieri di recarsi nella città. Insomma, si teme che i funerali possano essere la causa di nuove tensioni nel paese. Mentre un'altra notizia che proviene dall'estero e che ha letteralmente scioccato l'Irlanda del Nord è quella della confessione di Gerry Adams. Gerry Adams, che cosa ha detto? Ha scoperto tutto 11 anni fa, il leader cattolico. Gerry Adams è colui anche che ha guidato molto la protesta politica contro la Gran Bretagna, il presidente del Sinn Féin, il partito insomma, che vuole il distacco dal Regno Unito, l'indipendenza dell'Irlanda del Nord. Gerry Adams ha fatto questa confessione: abbiamo scoperto, e ora bisogna dirlo, che nostro padre, mio padre, era un molestatore, ha sostanzialmente abusato emotivamente, fisicamente e sessualmente dei suoi figli. Figli 10, tra l'altro, complessivamente, 5 maschi e 5 femmine, oltre a 3 morti subito dopo la nascita, soggetti quasi tutti alla violenza di un uomo che sino all'ultimo non ha ammesso la verità e che è morto senza riconciliazioni, da solo. Tra l'altro Gerry Adams, lui è il primogenito, che del padre porta anche il nome, Gerry Senior. Non ricorda lui di avere sofferto o assistito agli abusi dei fratelli, non ha captato alcuna deviazione, però ora ha scoperto, insomma, in un lento processo anche di dialogo con i propri fratelli, cos'era successo. Dice: è stato uno shock terribile, siamo arrivati alla verità a ritmi diversi, coloro che hanno sofferto non volevano rivolgersi alla polizia, ma siamo stati aiutati come famiglia, abbiamo ricevuto l'assistenza di diversi professionisti. Ovviamente è una notizia che magari vista dall'Italia da meno scalpore, ma Gerry Adams è un politico famosissimo in Irlanda e nel Regno Unito e quindi, insomma, questa sua confessione la trovate un po' sui giornali, un po' ovunque. Come un'altra confessione, a distanza di tanti anni, la trovate sulla Stampa, è di Monica Lewinsky, quella, insomma, dei rapporti piccanti con l'ex presidente americano Bill Clinton, e che parla in un libro, per la verità, dopo tanti anni di silenzio, e che rivela nuove cose. Primo, innanzitutto, che Bill Clinton dice ha mentito, perché nella sua deposizione disse che ci fu solo qualche rapporto orale tra noi due, quando invece non era così. Fa capire, insomma, che ci fu qualcosa di più. E la cosa può sembrare così una pruderia, invece è importante, perché su quel punto Bill Clinton si difese dicendo non è vero tradimento coniugale perché era un rapporto di tipo diverso. Vabbè, poi bisogna capire che vuol dire. Invece Monica Lewinsky fa capire che ci furono rapporti completi. E poi, insomma, si svela che anche Hillary avrebbe avuto un amante. Si tratterebbe di Webster Hubbell, suo ex partner in uno studio legale. E dunque anche la First Lady aveva un amante all'epoca, questo secondo quello che si evince da questo libro. Insomma, la vicenda dopo tanti anni torna un po' alla ribalta, se vi interessa. Voglio andare a due conclusioni veloci, vale a dire trovate su Repubblica due pagine dedicate al sogno di Roma di avere il Gran Premio di Formula 1 a partire dal 2012, con la Lega che già si scatena, non toccate la gara di Monza per la verità, per la carità. E un'intervista a Jarno Trulli che già dice: mi piacerebbe tantissimo correre a Roma, in fondo dai, già anche le corse con le bighe al Circo Massimo erano chiaramente un antenato della Formula 1. Beh, adesso, oddio, un antenato della Formula 1, le bighe al Circo Massimo, però va bene così. Infine una segnalazione che non è di sport ma ormai è considerato quasi uno sport sul Sole 24 Ore: piatto ricco per il poker online. C'è un'intera pagina sul poker online, sull'analisi del giocatore tipo, davvero un'attività che sta coinvolgendo sempre più italiani, e soprattutto entro fine anno verranno ufficializzate le regole per il cash game, cioè si giocherà con il proprio portafoglio, una puntata massima fino a 1000 euro, ma trovate tutti i dettagli sul Sole 24 Ore di oggi a pagina 13, dedicata appunto al poker online, questa nuova febbre che sta coinvolgendo molti italiani.